la conoscevo da tempo e poi ho passato con lei almeno un intero pomeriggio alla settimana per più di un anno, quando ci siamo messi a scrivere la sua autobiografia per un'idea che non era né mia né tantomeno sua, schiva come era Bianca, ma degli amici del Centro Gobetti, di cui Bianca è stata fra i soci fondatori per la sua amicizia con Ada Gobetti, la vedova di Piero, e poi anche presidente. E furono proprio gli amici del Centro Studi, Marco Revelli, Laura Contini, che pensarono che era un peccato che Bianca non avesse messo insieme tutta il racconto e le memorie della sua vita, e mi chiesero di convincerla. Dopo qualche esitazione Bianca accettò, e come dice lei stessa nell'introduzione, lei non si sarebbe mai sognata di raccontare le sue memorie, ma se ne è convinta con l'idea di dare una testimonianza di storia collettiva che aveva vissuto con tante altre donne e uomini anonimi, che nomina con nome e cognome e fa rivivere in carne e ossa nella lunga sua attività politica e di avvocato che ha compiuto per più di mezzo secolo. Senti Santina, io inizierei... complicato raccontare la figura di Bianca Guidetti Serra, perché alle volte appare come una sorta di vettore del Novecento, avendo attraversato tutta una serie di lotte e di battaglie che hanno trasformato il nostro secolo, ma dall'altro c'è da rendere conto di una vita umana complessa e vera, e vissuta anche all'insegna di un lavoro estremamente faticoso come quello dell'avvocato, soprattutto in settori in cui si impegnava lei. Per cui assieme a te magari proveremo a cominciare dall'inizio, ovvero da forse una prima scintilla di quella coscienza politica che si manifesterà nella sua generazione, in generale alla fine del fascismo. E la sua prima scintilla nasce con le leggi razziali, come reazione alle leggi razziali. Non viveva una famiglia politicizzata, tantomeno poteva essersi politicizzata attraverso la scuola dell'epoca, ma era amica di un gruppo di giovani ebrei, fra cui Primo Levi, con cui restò amica per tutta la vita, e Alberto Salmoni, suo compagno di studi di chimica, che poi sarebbe diventato il marito di Bianca. Ed è vedendo... Bianca non era affatto una persona ideologica, una persona molto, molto concreta, che aveva delle certezze morali prima che politiche, faceva conseguire le scelte politiche dai suoi fondamenti morali, da ciò che considerava giusto o ingiusto, e vedendo concretamente quali erano i soprusi che venivano imposti, le limitazioni che venivano imposte ai suoi amici con le leggi razziali, di qui la sua reazione, la sua scelta antifascista, che poi maturò nel corso della guerra e della resistenza. E quindi appunto poi inizia questa attività resistenziale importante di Bianca. No, certamente, prima ci sono anche degli episodi quasi così spontanei, quando lei e un gruppo di amici, quando comparvero i primi manifesti a Torino in via Roma che additavano gli ebrei, siamo già durante l'occupazione, siamo agli inizi del 40, dopo l'8 settembre del 43, che indicavano gli ebrei come nemici della patria, lei con questi amici si misero a strapparli e gridando "siamo tutti italiani", a rischio anche di essere arrestati, cosa che non successe perché riuscirono a fuggire. E successivamente Bianca con Ada Gobetti, che conosce in quell'epoca e che avevano un legame anche tra loro, nasce un'amicizia, un legame anche affettivo, perché il fidanzato di Bianca, Alberto Salmoni, e il figlio di Ada, Paolo Gobetti, erano nella stessa banda partigiana in Valchisone, e allora cominciano così i loro viaggi, in cui combinano il ruolo di staffette con la visita ai loro cari, e poi danno vita a Torino alla rete torinese di quelli che furono i gruppi di difesa della donna, che erano delle reti clandestine molto importanti nella resistenza, e arrivarono alla fine a contare anche 70.000 donne, secondo le cifre ufficiali, alla fine della guerra. E questo lasciò su di lei una impronta molto forte, fu il suo primo, diciamo, lavoro politico diretto, attivo, e nel frattempo, a differenza di Ada, che era, faceva parte del Partito d'Azione, lei si era iscritta al Partito Comunista, in cui resterà fino al 56, quando dopo i carri armati a Budapest ne uscì, e fu una rottura anche dolorosa sul piano personale, per una serie di amicizie che si ruppero, e un momento drammatico. Senti, in questi anni di militanza nel PC, subito post guerra, portò questo suo impegno, insomma, legato all'essere una donna in politica, che aveva iniziato già nell'attività resistenziale? Sì, lei nell'immediato dopoguerra lavora al sindacato, che stava rinascendo allora, la Camera del Lavoro torinese. Non c'era ancora stata la scissione sindacale, quindi c'era un sindacato unitario, dove lei ha un ruolo nel sindacato tessile, che era composto in gran parte di donne. Lavorava all'ufficio legale, perché si era nel frattempo laureata in giurisprudenza nel 43, e faceva anche parte del direttivo della Camera del Lavoro torinese come segretaria della commissione femminile del sindacato. Entrò poi anche nel direttivo nazionale, quindi si è occupata molto di donne in quel periodo, ed è memorabile uno sciopero che riuscì a organizzare, di cui raccontiamo nel libro, molto poco noto, uno sciopero che ebbe un'adesione enorme nel luglio del 45, quindi subito dopo la liberazione, ed era il governo Parri. Il governo aveva varato la contingenza, come si chiama, insomma, l'indice della contingenza sui salari, in misura diversa per gli uomini e per le donne. E Bianca anche qui reagì subito, riunì la commissione femminile, convocò l'UDI, e indissero molto rapidamente, in pochi giorni, uno sciopero quasi per passaparola, che ebbe un'adesione enorme. Si fermarono le fabbriche, uscirono le donne dalle commesse, dai negozi, dagli uffici, dalle poste. C'è una fotografia su un giornale dell'epoca che mostra una massa enorme di donne, tutte donne, prima sotto il municipio, poi sotto la Camera del Lavoro, infine sotto l'Unione Industriali, con scritto a parità di lavoro, parità di salario, che venne poi ottenuto solo per la provincia torinese, finché poi non cambiò la legge nazionale l'anno successivo. Ma fu un'esperienza molto grossa, c'era ancora l'onda dello spirito della resistenza, l'indignazione per questa ingiustizia, che è anche rivelativa ancora della mentalità dell'epoca, perché era appunto il governo della resistenza, insomma. Certo, ed è quel momento di cui effettivamente hai ragione tu, si sta cominciando a riflettere solo ultimamente sull'importanza di quei primi momenti di protagonismo delle donne nelle lotte sociali. Certo. Indica forse anche insomma, ci potresti dire qualcosa di più anche secondo te su il rapporto tra Bianca e il femminismo, che spesso è stato un rapporto più all'insegna forse della pratica che dell'elaborazione teorica? Sì, Bianca in tutta la sua vita ha lavorato molto con le donne, per le donne. Ha voluto anche raccogliere negli anni 70, forse lo conoscete, quei due volumi intitolati Compagne, le testimonianze delle donne che aveva conosciuto nella Resistenza, quasi tutte comuniste, e voleva lasciare una traccia leggendo questo. Sì, anche... facendo un lavoro, scusa se ti interrompo, sì. Insomma, perché si è cominciato a parlare in maniera concreta di donne nella resistenza negli anni 70, prima sostanzialmente era un'esperienza molto coperta, a parte poche figure molto note, e quindi con questi volumi Bianca ha anche contribuito, insomma, a quel lavoro pionieristico di storia orale, anche appunto un lavoro pionieristico di storia orale, che ha reso, come dire, almeno conoscenza, insomma, della partecipazione delle donne alla resistenza, che fino a quel momento, insomma, a parte due o tre figure. Sì, certo, alla resistenza, ma anche alla politica, e negli anni precedenti, per quelle che erano già militanti comuniste, e di tutte comunque anche la loro vita precedente, quindi uno spaccato della condizione delle donne. Delle classi subalterne, insomma, di un'Italia molto arcaica, molto, molto arretrata, di donne che a volte erano di famiglie socialiste, a volte comuniste, a volte anche no, ma maturano una coscienza nella durezza delle condizioni di lavoro che poi le porta a partecipare alla resistenza. Sì, appunto, e quindi tu raccontavi di questo rapporto di Bianca con il femminismo a partire da, ecco, da sì, questi. Ecco, Bianca dice, è una donna, è sempre stata una donna, come dire, attratta dalle pratiche più che dalle teorie o dalle ideologie. Confessa, no? Lo racconta nel libro, di aver avuto un rapporto difficile con il nuovo femminismo. Nel senso che non ne condivideva il separatismo, ma ha discusso molto con loro, ed è interessante perché in fondo è un confronto generazionale, no? Il nuovo femminismo ha considerato spesso le donne della generazione di Bianca come emancipazioniste, no? Certo. E invece la generazione Bianca e la sua generazione vedevano o temevano nell'accentuazione della differenza una perdita dell'universalismo, no? Che sì, uguaglianza, differenza, appunto, universalismo e separatismo. Privilegiata sempre da parte sua alle donne lavoratrici, alle donne svantaggiate, ecco. E, senti, non so se appunto noi vorremmo condurre questo ricordo di Bianca a più voci, e quindi dopo di te sentiremo anche altre, ma insomma, certo. Prima di chiudere con te vorremmo sapere se c'è un altro ricordo di Bianca che ti viene in mente, che vuoi condividere con noi e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Ma guarda, se vuoi posso leggere una sua frase. Sarebbe bellissimo. Nel capitolo finale delle sue memorie, che mi sembra un suo perfetto ritratto, dove dice, ritorno al fatto che era una donna attratta dalla pratica, dall'agire, no? E dice: mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto, cercando sempre di essere me stessa. Nel mio operare ho anteposto i fatti concreti ai discorsi, la moralità delle persone alle idee. Non voglio dire che le idee e le parole non contino, ma sono più volatili, possono essere piegate a fini diversi. Nel mestiere e nella militanza ho cercato di far valere contro la legge del più forte i diritti dei più deboli. Non mi sono mai sentita antagonista per principio. Quando mi sono battuta contro qualcuno era per difendere qualcun altro. Insomma, devo dire, una bellissima lettura di una pratica militante, consapevole, forte, umana, no? Sì, molto molto molto umana, molto e sempre molto modesta. Mi ha colpito mentre facevamo il libro, nei suoi racconti, la distanza fra l'importanza delle vicende vissute di cui è stata protagonista e che raccontava, e il tono assolutamente modesto, semplice, del modo in cui le presentava. Mi è piaciuto il fare e ho fatto quel che ho potuto. Noi ti ringraziamo veramente molto. Il libro Bianca la Rossa si trova ancora? Sì, si trova ancora. E quindi insomma lo indichiamo ovviamente a chi ci ascolta, e niente, grazie ancora. Benissimo, grazie. Grazie Santina, ti auguriamo insomma una buona giornata anche per la cerimonia che ci sarà questo pomeriggio. Grazie, un saluto. Arrivederci. Ciao.